America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, abbiamo visto dai risultati elettorali che Mitt Romney ha vinto in tutti e tre gli stati in palio, in lizza, ieri alle primarie repubblicane, il Wisconsin, il Maryland e Washington DC. Si è riuscito ad aggiudicare una buona maggioranza di delegati. Ieri vi abbiamo dato notizia che era riuscito ad arrivare a metà strada, a quota 572, quindi metà di quei 1144 delegati necessari per vincere la nomination. Gli altri comunque restano indietro. Direi che il percorso di Romney è ormai un percorso annunciato, ci vorrà tempo, si andrà avanti per un pochino, ma non vorrei soffermarmi oggi sulla politica, di cui parliamo anche troppo spesso. Vorrei soffermarmi invece su un paio di fatti di cronaca che ci danno uno spunto per una bella riflessione barra analisi. Le notizie: ieri la Chrysler ha aumentato le vendite in America del 34% nel mese di marzo. Si tratta di un risultato straordinario per la casa automobilistica americana, che migliora dunque la sua posizione di mercato. Oggi si apre a New York il Salone dell'Auto, e con l'apertura del Salone dell'Auto ci sarà la presentazione della nuova Viper, questa macchina molto aggressiva, super sportiva americana, prodotta appunto dalla Chrysler. E dunque, attorno a questa tematica automobilistica, vorrei affrontare quella che è diventata una piccola polemica. One of the most encouraging signs in the U.S. economy over the past year has been the resuscitation of the American automobile industry from a near-death experience. Forse lo ricorderete, CBS 60 Minutes aveva dedicato uno spezzone a Marchionne e a come il capo della Chrysler, di Fiat Chrysler, Fiat che peraltro oggi è riunita in assemblea, dicevo, il capo di Fiat Chrysler aveva riscattato la casa automobilistica americana. This country can't be knocked out with one punch. We get right back up again, and when we do, the world's going to hear the roar of our engines. Yeah, it's halftime, America, and our second half's about to begin. Ricorderete anche questo spot televisivo, Clint Eastwood, avete sentito la voce profonda, siamo alla fine del primo tempo del Super Bowl, 100 milioni di americani schierati davanti allo schermo vedono questo grande eroe di film western, il duro, il simbolo per antonomasia della purezza, della trasparenza americana, che dice: questo paese non può essere buttato giù con un pugno, si sente il rombo dei motori, siamo alla fine del primo tempo, il secondo tempo per l'America sta per cominciare. Ecco, ricorderete questo spot perché in qualche modo rappresentò un intervento a gamba tesa di Sergio Marchionne nel dibattito politico americano, forse del tutto inaspettata la reazione che ci fu, però i repubblicani reagirono a questo spot televisivo dicendo che Marchionne aveva fatto questa pubblicità per aiutare Barack Obama nella campagna elettorale. Perché? Beh, perché Barack Obama ha dato gli aiuti al settore automobilistico, i repubblicani dicono che è stato un intervento statalista che non doveva succedere. Il fatto che un uomo come Clint Eastwood intervenga e dica è stata una cosa giusta, beh, devo dire che ha lasciato il segno nel paese, ne hanno parlato tutti i giornali, New York Times in testa. Aggiungo, Sergio Marchionne è entrato nella lista di Barron's dei 30 migliori amministratori delegati del mondo, pubblicata un paio di settimane fa. Barron's, ricordiamolo, è il settimanale del Wall Street Journal. Time Magazine gli ha dedicato una copertina, lo aveva incluso nei 100 uomini più importanti del mondo. Ecco, questo dunque un quadro dal punto di vista della stampa, dei media, della televisione americana. E quella italiana? Beh, allora cominciamo col sentire quello che ha detto in Italia Federico Rampini su Rai 3, ospite del programma Agorà. Marchionne in America non è nessuno, diciamolocelo chiaramente. Ogni tanto in Italia qualcuno, nonostante dice, si dica come, in America, ecco, insomma, è l'uomo che ha salvato Detroit. No, non è, Chrysler, non è l'uomo che ha salvato Detroit. Obama è andato da lui. È uno, sì, Obama è stato contento di aver trovato un socio estero per salvare la Chrysler, e quindi c'è stato un buon rapporto di collaborazione tra il governo e la Fiat. E detto questo, Marchionne è uno come migliaia e migliaia di imprenditori americani, ha preso il modello americano e lo trasporta in Italia. Sempre su Rai 3, il programma Presa Diretta manda in onda un reportage di Giovanna Botteri, corrispondente qui appunto del TG3 dagli Stati Uniti, su Fiat Chrysler. Ed ecco l'atmosfera di insieme con cui si apre il reportage. Alla fine degli anni 50, 2 milioni di persone vivevano e lavoravano a Detroit, qui all'interno della città dove c'erano le fabbriche. La ferrovia, passava attraverso la zona industriale. Oramai questo è un binario morto e l'intera zona attorno, le fabbriche, gli edifici, sono tutti disabitati. A Detroit il 60% della popolazione se n'è andato. Da 2 milioni ci sono 700.000 persone ormai che vivono a Detroit. Nessun'altra città americana ha subito una perdita di popolazione così grande, forse New Orleans dopo l'uragano Katrina. Ecco, le differenze mi sembrano evidenti. Da una parte Detroit è su binario morto, Marchionne è un signor nessuno, dall'altra, ecco, sentiamo proprio Steve Croft nel programma 60 Minutes, di cui vi ho parlato in apertura di trasmissione, cosa dice? None of it would have happened without the efforts of a 59-year-old Italian-born and Canadian-raised auto executive named Sergio Marchionne, who engineered a last-minute partnership with Fiat in an American-style success story. Ecco, avete sentito la voce di Croft descrivendo dei successi del settore auto, della Chrysler in particolare. Croft dice: niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l'intervento di un 59enne nato in Italia, cresciuto in Canada, Sergio Marchionne, che nell'organizzare la partnership con la Fiat ha prodotto una storia di successo americano. Ecco, dove sta la verità? Sta nel mezzo, sta da una parte, sta dall'altra. È sorta una polemica perché il portavoce di Chrysler, Gualberto Ranieri, è intervenuto in questo dibattito, ha scritto due lettere aperte alla Botteri e a Rampini dicendo che dal suo punto di vista c'è stata una distorsione dei fatti e che forse nel loro reportage, nel loro modo di fare giornalismo, ci sono delle tesi predefinite da diffondere o c'è comunque un giornalismo schierato. Ecco. E allora Marchionne è un signor nessuno o è qualcuno in America? La risposta domani da un confronto diretto fra Federico Rampini, Giovanna Botteri e Gualberto Ranieri, tutti e tre ai microfoni di America 24 per darvi una risposta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Allora, uomini d'affari di successo o no? Mitt Romney era un uomo d'affari e pensate che ha raccolto sostenitori anche nel mondo della musica. Ieri Gene Simmons, cantante del gruppo rock Kiss, ha dato il suo appoggio al candidato repubblicano con queste parole: l'America dovrebbe essere guidata da un businessman. The Kiss, I Was Made for Loving You. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.